cosa vuoi da me? Che cosa vuoi sentirti dire? Io non ho soluzioni, solo un paio di scarpe che hanno camminato là fuori. Cosa vuoi da me? Non ho risposte da dare. L'unica cosa che so è che per far luce bisogna bruciare. Davvero? Davvero? Davvero? Non mento, non scherzo, non fingo. Davvero? Te lo dico per soprattutto non aver paura di sbagliare.